punto di riferimento per la città, perché rappresenta un attimo quello che insomma il giornalismo, la cronaca di Bologna vista dal basso. Come spazio che ho gestito XM24 più e più volte, insomma, abbiamo mandato i nostri comunicati preferibilmente a Zic piuttosto che alle testate giornalistiche mainstream, più che altro per avere la certezza che tutto quello che scrivevamo non venisse in qualche modo, in nessun modo strumentalizzato. Io credo che insomma la ricchezza di avere una testata giornalistica in città di movimento garantisce che le nostre cose vengano, come dire, raccontate con il taglio giusto e non invece insomma con i vari giochetti che purtroppo la stampa mainstream ci ha abituato e ci continua sempre più ad abituare e a insomma a vedere. Ripeto, come insomma emblematica, per chi se li ricorda, il libro in particolare parla racconta, insomma riporta gli articoli degli ultimi 10 anni di movimento. Per chi non se lo ricordasse, Zic era un cartaceo che poi è diventato online e adesso ritorna cartaceo in un certo senso, un po' per ricordare il percorso che ha attraversato insomma il movimento bolognese in tutte le sue sfaccettature, proprio insomma attraverso il portale di Zic. Oh raga, fate sta zitto sto cane. Quindi come nell'ultimo anno e mezzo, per chi ha partecipato e chi c'è stato, insomma, Zic è stato, come dire, ci ha dato una enorme mano, almeno come XM24, a riportare quelli che poi erano i temi della battaglia, cosa davvero stava accadendo, perché dall'altro lato XM veniva nominato, citato, raccontato nei giornali che trovate nei bar e via dicendo, ma veniva di volta in volta raccontato alla maniera di chi voleva raccontare altro che non quello che stava accadendo. Di questo insomma ringraziamo i compagni, tutti i redattori di Zic per il lavoro che fanno, e prima scherzando insomma con loro, un altro insomma contributo utilissimo a tutto il movimento, un contributo quotidiano che danno, e soprattutto quello della colonna destra di Zic, dove ci sono tutti gli eventi che ci sono a Bologna, tutte le iniziative, tutte le presentazioni di libri, tutti i concerti, tutta insomma, per chi ancora non lo sapesse, per chi non avesse ancora visitato il sito, zic.it, zero in condotta, ricordiamolo, poi magari ti farò la domanda specifica rispetto proprio al nome. E niente, andatelo a vedere, proponete cose, occupate case, occupate spazi e fatevi raccontare da Zic. Adesso nel senso che proprio sfogliando il libro, insomma, quello che sono i primissimi articoli di 10 anni fa, un po' ci sono le avvisaglie rispetto a tutte le battaglie che ci sono, e soprattutto scorrendo le pagine del libro ci sono insomma articoli che raccontano purtroppo di spazi e di esperienze che non ci sono più, che di tutte le denunce che sono seguite, di tutta la repressione che c'è stata. Zic continua a essere qui, XM continua ancora ad essere qui, il PD chissà, forse non ci sarà più, però insomma il nostro racconto dal basso, guardando cosa si vive davvero nelle strade, quali sono davvero i bisogni di tutta una generazione e non solo, ricordiamo insomma che questi 10 anni che vengono raccontati nel libro sono anche i 10 anni di quella che è stata la crisi, quindi tutte le battaglie sociali, tutte le battaglie per la casa, per il reddito, sui posti di lavoro, le perdite di garanzia, insomma c'è tutto questo nel libro e c'è quotidianamente tutto questo nelle pagine online del quotidiano. Adesso lascio la parola a Zeppe per raccontarci un po' l'esperienza, soprattutto magari iniziamo dall'inizio, così fai un'introduzione, perché vedo un sacco di facce nuove che magari non si vedono nei nostri cortei, adesso qua avanti sì, però insomma che gira qui e forse ci ascolta. C'è un sacco di ragazzi che sono venuti a esporre da tutta Italia, insomma presenta un attimo Zic, un po' fai una cronistoria dagli albori in poi. Ciao, allora va bene, partiamo quindi dalla storia, per chi ci conosce magari suona un po' ripetuta, per chi non ci conosce partiamo dall'inizio. Zero in Condotta nasce nel 95 come giornale di carta che usciva nelle edicole, con un taglio molto diverso da quello che è il giornale online attuale, molto, con molto più spazio per la cultura, ma già mosso dallo spirito che si ritrova ancora oggi, che è quello di raccontare una città diversa dal racconto ufficiale, dal racconto mainstream. Nasce nel 95 come evoluzione di un'esperienza precedente che si chiamava Mongolfiera. Chiaramente io nel 95 avevo 12 anni, quindi non ero a Bologna, quindi è una storia che non ho vissuto. Io arrivo a Bologna un po' di anni dopo, nel 2002, che imbattendomi in questo giornale di movimento che usciva ancora in edicola, una formula che funzionò per un po' di tempo, che in quegli anni mostrava i suoi limiti, perché già iniziavano a moltiplicarsi i canali di informazione ed era un modello che a un certo punto non si riuscì più a portare avanti. Ci fu una pausa di qualche anno e dal 2007 una redazione quasi completamente rinnovata, in cui solo una persona, Valerio, che tra l'altro ha l'onere e sicuramente non l'onore di essere il direttore responsabile, cioè colui che ha che si prende tutte le rogne. Il resto era una redazione completamente nuova. Noi chiarisco subito, la figura, chiaramente essendo una testata registrata, e su questo tra poco ci arrivo, la figura del direttore è inevitabile, ma sia nella sua prima veste cartacea sia in tutti questi 10 anni online, 11 ormai online, la redazione è sempre stata completamente, assolutamente autogestita e auto-organizzata. Con assemblee nazionali e meccanismi di decisione orizzontali e collettivi. Dicevo, nel 2007 parte il sito, che era già l'indirizzo attuale www.zic.it, con un taglio che è una relazione rinnovata, e molti di noi che entrammo allora venivamo dai movimenti studenteschi di allora, che sono qualcosa su cui forse meriterebbe di scrivere un altro libro, che magari prima o poi qualcuno farà, e ci sfidammo con questa scommessa molto difficile, perché dall'inizio decidemmo di mettere in piedi un quotidiano autogestito online. Autogestito, ho già detto cosa è chiaro cosa si intende. Sul quotidiano c'è qualcosa da dire, perché effettivamente Zic è un giornale registrato come una testata, e parte anche dalla consapevolezza che per quanto il giornalismo ci dia spesso, allora come oggi, motivi di incazzarci, come metodo, principalmente come metodo e come orizzonte e come meccanismo redazionale, qualcosa da salvare abbiamo sempre pensato che ci fosse. Da una parte alcuni di noi venivano, me compreso, io in particolare, venivamo anche da Indymedia, quindi ci fu anche quella lezione da cui apprendemmo molto su, in particolare su come si segue su come si seguono le piazze, su come si seguono le manifestazioni, su come non mettere nei guai le persone, le soggettività di cui stai raccontando. E fu sicuramente un'esperienza grossa, senza cui non è detto che sarebbe mai nato niente di simile, e quindi sicuramente una radice è lì. L'altra è nel giornalismo. Zic ha una redazione e dal giornalismo cerca di apprendere qualcosa di utile, ovvero di una certa rigorosità in primo luogo, ovvero non voler essere sicuri di quello che si dice, voler fornire un racconto che abbia delle fonti certe, che abbia un'esaustività. E sicuramente quello che più si vede di Zic allora come ora, dopo 11 anni, è l'attenzione verso tutti i collettivi, gli spazi sociali, le forme di dissenso praticato, che è sempre stato un nostro sforzo raccontare nel modo più completo che le nostre forze ci consentissero. Zic però non ha dall'inizio mai voluto essere solo questo, una sintesi che forse è anche troppo semplicistica, ma che ci fornì una guida all'inizio, ce la fornisce ancora, e la forma di dare voce a chi diversamente non ce l'avrebbe, che in primo luogo è comodo perché ci permette di tagliare via tutti quelli che una voce comunque ce l'hanno, che sono partiti, sindacati confederali e gente del genere, che sicuramente non hanno bisogno di un organo autogestito che racconti quello che fanno. Dall'altra parte ci costringe ad ampliare lo sguardo anche oltre il dissenso e i movimenti sociali. Su Zic da sempre si trovano i racconti che riguardano gli esclusi, gli ultimi, l'esclusione sociale, le discriminazioni. Facciamo uno sforzo costante per dare conto ogni volta che c'è uno sgombero di senza tetto, di un accampamento sul lungo Reno in qualche altro posto sfigato, così come siamo sempre attenti a quello che succede nelle carceri bolognesi, alla Dozza e al Pratello, perché queste sono voci che hanno ancora meno possibilità di farsi sentire delle nostre, di quelle di chi pratica auto-organizzazione sociale. No, nel senso che come dicevi, nasce come quotidiano, però è insomma una delle cose più interessanti da leggere sul giornale online sono anche, come ribadivi tu adesso, le varie inchieste specifiche, proprio per andare a trovare notizie dove magari la stampa mainstream non vuole andarle a cercare, perché magari troppo torbide, perché magari mette in difficoltà il politico di turno, e rispetto proprio alle inchieste, no? In questi 10 anni, qual è, diciamo, quella che secondo te, ecco, le prime due, o magari quelle che ti hanno un po' più, o vi hanno più coinvolto e che sono andate pure un po' più alla ribalta cittadina soprattutto, e non solo? Ma è difficile individuarne una in particolare. Sicuramente c'è il filone della casa, che ci ha visti attenti e impegnati a capire i limiti e i danni delle politiche abitative bolognesi, e sono tante. Facendo qualche esempio degli ultimi anni, faccio proprio sempre gli ultimi anni, anche perché mi consente di dire un'altra cosa, che l'essere l'essere un giornale con tutti i, l'essere un giornale registrato e tutto, ci ha consentito anche di bucare in alcuni casi gli altri giornali, cioè di costringere il resto del panorama mediatico che ha obiettivamente delle persone che lo seguono a Bologna, ad andare su temi e su questioni che diversamente non avrebbe trattato. Faccio due esempi, uno di qualche anno fa ed era il caso di un vigile che si vantava sui social network di come trattava gli le persone che sgomberava, ora mi scuso che non mi ricordo tra l'altro esattamente qual era la questione. E questo caso che scoprimo noi fu entrò nel dibattito cittadino anche sugli altri giornali per un po' di tempo. Più recentemente siamo stati molto contenti di bucare sul tema dei gadget nazifascisti che si trovano in vari mercatini bolognesi. Fu una cosa di cui ci accorgemmo noi, pubblicavamo il primo le foto e dovettero parlarne tutti subito. E non che fosse questo il nostro obiettivo dal primo momento, però è un dato di fatto che da lì partì, dopo un po' il comune si vide costretto a far uscire una delibera che provava a limitare questo fenomeno, per quanto criticabile per certi aspetti e che lascia insomma dei buchi, però è comunque un risultato. E un altro esempio da citare è sicuramente Chiedi alla Polvere, che è l'inchiesta che abbiamo fatto in due puntate nel 2013 e poi l'anno scorso, con un lavoro che è andato a scovare tutti, e speriamo che siano veramente tutti gli spazi che sono stati sgomberati, che fossero spazi sociali, occupazioni abitative o esperienze simili, e che poi sono rimasti abbandonati appunto alla polvere. Perché ogni volta che c'è uno sgombero, tra l'altro quasi sempre ci vengono a raccontare che c'è un progetto, no? Bisogna assolutamente liberare, perché dobbiamo fare questo, questo e questo, un asilo, una mensa per i poveri, oddio togliete. Poi invece 9 volte su 10, e sono buono, va a finire che quegli spazi passano anni e anni e anni vuoti, che siano pubblici o privati, e anche in questo caso abbiamo costretto altri a occuparci, perché chi dandocene merito chi dandocene merito e chi no, però questo lavoro fu riportato in vari altri contesti più mainstream, e ora possiamo dire che la consapevolezza che questa roba del progetto che imporrebbe gli sgomberi sia nella maggior parte dei casi una verità scemenza mi sembra sia abbastanza diffusa, caserme comprese, oltre a... No, un'altra cosa importante secondo me in questi anni, che poi emerge rispetto proprio alla questione degli spazi, adesso siamo in un contesto di autoproduzioni, lo stesso giornale, ricordavi tu, è come dire un prodotto autoprodotto e autogestito, e una domanda che volevo fare è proprio questa. Avendo un po' il polso degli ultimi 10 anni, si ricordava in un quarto di copertina i 12.500 articoli, 15.000 fotografie, insomma, avete visto questa città negli ultimi 10 anni, forse più di tutti quanti, iniziare a cambiare o comunque cambiare in qualche modo, tirando come dire un filo dal 2007 ad oggi. Qual è insomma la cosa che un po' una delle cose che secondo me è proprio la mancanza rispetto al 2007 di un sacco di esperienze, di un sacco di spazi che sono stati sgomberati, lasciate alla polvere. Cos'è che sta cambiando in questa città? Che cosa sta succedendo? Una domanda facile facile. È difficile ora, credo, trarre un bilancio da questo punto di vista. Noi abbiamo iniziato che c'era Cofferati e dal punto di vista dell'ingiustizia sociale, della cattiveria dell'amministrazione, forse è stato il periodo peggiore, comunque quello che si ricorda. Va anche detto però che durante Cofferati nessuno gliene faceva passare una, quantomeno diciamo dalla sinistra radicale fino all'autogestione, per approssimare un campo. E ora molte cose che sembravano gravissime a molti ai tempi di Cofferati, ora noi e pochi altri non le tirassimo fuori, passerebbero quasi inosservate. E ritorno agli sgomberi sul Lungo Reno, che erano le principali cose che si imputavano a Cofferati, penso anche alla crociata contro i lavavetri, e che poi sono ricapitate nelle successive amministrazioni, tanto con la Del Bono, tanto con la commissaria e ora con Merola. Però ci siamo forse un po' abituati, forse il cambiamento è stato, e non è bello dirlo, è un po' stato questo, che a certe strutture e malvagità del potere locale si rischia un po' di aver fatto il callo, ed è importante qualsiasi forma di comunicazione, sicuramente non solo noi, qualsiasi forma di denuncia per provare ad andare contro questo processo di normalizzazione che avviene un po' in automatico. Non è che nessuno ordini di considerarle normali queste cose, è quello che sta avvenendo. La domanda fatidica, dicevamo, giornale prima cartaceo, prima poi dopo online, e adesso torna su carta. Perché il libro? Perché ritornare di nuovo a carta? Ma approfittando del fatto che ci siamo accorti che erano 10 anni che portavamo avanti questo sito, abbiamo pensato fosse un buon momento per provare a trarre un bilancio, ed è quello che tentiamo di fare in questo libro, dove non solo c'è una selezione ovviamente lacunosa dei nostri articoli degli ultimi 10 anni, che può essere un filo conduttore per ripercorrere la storia tanto dell'auto-organizzazione quanto dei meccanismi di esclusione sociale di questi 10 anni a Bologna, ma che sicuramente lascia scoperto molto, e anzi non possiamo che scusarci verso le tante questioni, le tante lotte che non hanno trovato spazio nelle poche pagine che da un libro. Dall'altra però la cosa che più ci ha premuto è stato interrogarci sulla natura e sul senso del nostro lavoro, per come la percepivamo o come la percepiamo oggi, che non è solo, non è più come la percepivamo 10 anni fa. Quindi parte del libro è organizzato come un'intervista a noi stessi, in cui proviamo ad analizzare appunto alcune delle cose che vi dicevo prima, cioè il rapporto con il resto del panorama informativo, i temi di cui trattiamo, eccetera. E le forme della comunicazione, l'evoluzione che ha avuto anche il nostro agire, perché siamo partiti, tu facevi riferimento alla crisi, siamo partiti che ancora non era visibile, cioè si muoveva qualcosa nella finanza da qui chi la seguiva bene poteva capire che stava per succedere qualcosa di grave, ma dopo pochi mesi ce la siamo trovata tra capo e collo, il crollo delle Lehman Brothers e tutte le ripercussioni che ha avuto a livello anche di discorso pubblico all'interno dell'auto-organizzazione. Ci fu un movimento dell'onda quando eravamo online da meno di un anno, che, o forse qualcosina più di un anno, che con tutti i suoi limiti però presentava già nei temi e nel punto di vista, nella generazione, delle diversità rispetto a quello che conoscevamo anche noi stessi fino a due anni prima all'università. L'altra cosa che è successa in questi 10 anni è stato un grosso mutamento nella comunicazione online, e con questo siamo dovuti necessariamente confrontarci, che è stata la diffusione dei social network, che con cui abbiamo dovuto necessariamente fare i conti, perché sia dal punto di vista della ricerca delle fonti, perché pian piano, ma neanche troppo, molte realtà collettive hanno iniziato a usarlo come strumento principale di comunicazione, quindi dovevamo andare a cercare le notizie quando non ci venivano mandate per email. Dall'altra abbiamo gradualmente deciso di utilizzarli come strumento di diffusione dei nostri contenuti, pur dando sempre priorità al sito di per sé e non ritenendo saggio avere come strumento di comunicazione principale uno strumento che fosse al di fuori del nostro controllo, però abbiamo scelto di non starne fuori, ed è sicuramente una scelta che mi rendo conto che in contesti di movimento è dibattuta e ha diversi punti di vista. Di tutte queste cose appunto parliamo nella parte dell'intervista, che vi invito a leggere. Il libro lo distribuiamo nel banchetto che è davanti all'InfoShock, alla mia destra in fondo, che è in distribuzione anche sul portale di OpenDDB. Ecco, tu facevi riferimento prima all'autoproduzione, noi sicuramente siamo un'autoproduzione e ci percepiamo come tali, lo è il libro che abbiamo fatto, lo è il sito che aggiorniamo quotidianamente. E in quanto tale abbiamo anche deciso di pubblicare il libro in Creative Commons, di rifiutare la logica del copyright e di aderire al progetto di ridistribuzione di OpenDDB.it, che in realtà molto interessante, che invito ad andare a vedere chi non conosce, dove il nostro libro è in distribuzione insieme a moltissime altre cose interessanti a livello editoriale e audiovisivo. Quindi sì, in sintesi la sfida quotidiana è tenere un equilibrio su questo mix tra l'autogestione, l'autoproduzione, il saldo radicamento all'interno dell'auto-organizzazione sociale e le scivolose, da un certo punto di vista, ma utili da altri, forme del giornalismo vero e proprio. Nel senso che il lavoro, insomma, che cittadino, credo, è indubbio, e anche, come dire, la prontezza di riflessi quando accadono delle cose in città, e insomma siete abbastanza sul pezzo. E nel senso, volevo fare invece, come dire, una domanda rispetto a un po' il panorama allargato e rispetto a un po' come ci si muove rispetto al contesto sia italiano che europeo, quindi collaborazioni e via dicendo. Ricordo, insomma, una delle ultimissime, la quasi diretta da Hamburgo l'estate scorsa, con la collaborazione col collettivo a Crack, insomma, dei berlinesi. Ecco, volevo capire un attimo Zic oltre Zic, come si muove nel panorama insomma nazionale, collaborazioni e via dicendo. Allora, è un po' un tasto dolente perché abbiamo dovuto decidere di diminuire la nostra attenzione fuori Bologna per banali questioni di forze. Per parecchi anni ho mantenuto aperta una sezione del sito che si chiama ancora, ma era scomparsa, Magazic, che provava a restituire quello che succedeva appunto fuori dalla provincia di Bologna, che è il nostro principale ambito di racconto. E ci ha arricchito molto sicuramente, ci ha arricchito dal punto di vista delle collaborazioni. Quella con la K-Track per Amburgo è stata l'ultima in ordine di tempo, sicuramente molto preziosa, e mi fa piacere ricordare anche che è nata grazie ad antiche conoscenze che venivano proprio da Randy Media Bologna, da quell'epoca remota. E un'altra realtà a cui abbiamo sempre fatto riferimento e collaborato in qualche misura per il racconto nazionale e internazionale è Radio Onda Adulto, che percepiamo un po' come, al di là del differente media, perché Radio Adulto è appunto principalmente una radio e sono in seconda battuta un sito, però ci accomuna un taglio abbastanza simile che comprende anche il fatto di non essere megafono di una singola realtà, di una singola area politica, ma cercare di avere entro i paletti dell'anticapitalismo, antifascismo, antirazzismo, antisessismo, un racconto quanto più comprensivo e trasversale possibile del dissenso sociale. E pochi oltre a Radio Onda Adulto a livello nazionale penso possano rivendicarselo appunto di non essere espressione di una singola politica, ma di fare questo sforzo di raccontare un po' tutto. Zic nasce e cresce all'interno di Vax 61, che per chi non è di Bologna è un altro spazio sociale nel rione Cirenaica, ma non è mai voluto essere il giornale, la voce, il megafono di Vax 61, sicuramente non solo. Ed è una cosa che penso che sia quello che ci abbia permesso di arrivare fino a oggi, perché è il tipo di comunicazione che può avere un riscontro di lettori costante, che può avere una continuità al di là delle vicissitudini di un collettivo, ed è quello di cui penso ci sia bisogno ovunque. Anzi, è preoccupante che in molte città e molte realtà questo sforzo non lo faccia nessuno, e si tenda a rinchiudersi nei propri profili social o nei propri siti di area e non andare oltre. Noi cerchiamo di parlare a più persone possibile, anche a chi non vorrebbe ascoltarci, perché finché ce la contiamo tra compagni, detta semplice, tra compagni e compagne, sì, ci teniamo informati, ma resta tra di noi. Il nostro obiettivo è cercare di fare qualche passo oltre, perché c'è tutta una zona più o meno grigia di persone che possono essere sensibili ai temi e alle vicende che raccontiamo, ma se l'unico posto dove le trovano è il profilo social o il sito del centro sociale, probabilmente se non frequentano ovviamente in qualche misura gli spazi sociali di manifestazioni, certe informazioni, certe conoscenze non arriveranno mai. Ogni volta che abbiamo la percezione che questo ci riesce, di andare oltre il nostro più ristretto ambito di riferimento, credo sia un grande successo. Tornando al discorso appunto dei collegamenti, cioè del raccolto al di fuori di Bologna, è stato divertente anche negli anni far più o meno spingere a più o meno controvoglia a diventare reporter, chi non lo avrebbe mai fatto. Sono schiere di persone che magari se ne andavano un anno in Erasmus o si trasferivano all'estero in un'altra città, che ci siamo sempre divertiti molto a tartassare perché ci mandassero corrispondenze, foto e quant'altro da dove si trovavano. Sì, sicuramente potevamo fare di più dal punto di vista dei contatti nazionali. Poi c'è anche una dimensione di vissuto personale che ci ha messo dei limiti da sto punto di vista. Ci vorrebbe sicuramente che al di là del nostro piccolo nascessero altre realtà di comunicazione che facessero questo sforzo su un orizzonte più ampio di una singola città. È una scommessa, è difficile ed è impegnativo, perché darsi una continuità, non una volta che dici che segui tutto, poi devi più o meno seguire tutto, in base, perché se quel giorno sei in vacanza o hai i tuoi problemi, però succede una cosa importante, quello che si percepisce da fuori è che di quella cosa non hai voluto parlare, quindi una soluzione va trovata. Questo vale tanto su Bologna quanto su livello nazionale, quindi ben consci che sia difficile, però non si smette di sperare che altri progetti del genere nascano e crescano. La domanda veniva proprio, insomma, un po' l'hai anticipato tu, perché volevo introdurre un attimo a queste altre due domande, poi siamo quasi in conclusione. Scalpitano gli artisti per suonare o ti imbettiranno, diceva qualcuno. E le altre due domande te le faccio a bruciapelo, così: sono una rispetto a, proprio un po', riprendo il sottotitolo del libro, lo stato dell'informazione autogestita oggi, un po' hai risposto, un po' magari integra se ti viene in mente qualcos'altro, e l'altra cosa riguarda quello che un po' dicevi, la maniera per poter coinvolgere anche, diciamo, nuovi redattori. Insomma, spiegaci come, chi ha in mente adesso, sente magari che c'è la possibilità di far parte di un giornale autogestito a Bologna, come può fare, dove li trova, cosa, dove deve scrivere e via dicendo. Beh, parto da qui, da chi vuole collaborare in qualsiasi misura, che sia mandare un articolo ogni tanto, fare due foto, collaborare in maniera più organica, ci contatti. La nostra mail è riportata sul sito ed è redazione@zic.it, oppure se qualcuno è presente ce lo venga a dire anche subito, questo chiaramente fa solo che piacere, anche perché è dura, insomma. E lo stato dell'informazione autogestita, come dicevo, è sempre insufficiente, cioè ce ne vorrebbe sempre di più, ci vorrebbe sempre più comunicazione tra i progetti che esistono, e ce ne vorrebbero sempre più di nuovi. E ad esempio noi facciamo una cosa specifica, che è quella che spiegavo prima. Da molto tempo in Italia non c'è più l'open publishing, non c'è più niente che ricordi un modello indie media, cioè, non ce n'è più bisogno, ce n'è di nuovo bisogno, non lo sappiamo noi, ma penso che non lo sappia nessuno, perché non ce lo stiamo più chiedendo. Quindi l'informazione autogestita ha sicuramente anche bisogno di ricominciare a farsi delle domande e sperimentare cose nuove rispetto a quello che già c'è, anche perché nessuno ha l'arroganza di essere di aver trovato il modo giusto e di coprire tutto e di dare tutti i punti di vista, ce ne vogliono di più. Vabbè, ricordo, insomma, per chi non l'ha ancora visitato, per chi non sapesse che, insomma, qui a Bologna, parlo per chi magari è qui per la serata e non è di Bologna, esiste un quotidiano online da ormai un 2007 online, che parla di quello che accade a Bologna in maniera quotidiana. Si accadono un sacco di questioni da raccontare rispetto agli ambiti di movimento, rispetto al dissenso, rispetto al disagio di questa città, rispetto a tutte le varie operazioni di sicurezza e di decoro che ci vengono imposte dall'alto, c'è un punto di informazione che guarda in basso, che guarda dal basso, parte dal basso, autogestito, auto-organizzato. Insomma, l'unico augurio è di informarci ancora fra 10 anni per il secondo libro. Chi vuole partecipare, essendo un progetto autogestito come tutti i progetti autogestiti, ha bisogno del piccolo contributo di tutti per farne una cosa grande. Grazie a tutti, vi lascio alla musica, rimanete connessi con XM24 perché l'estate si avvicina e l'estate a Bologna sono sempre calde, calde, calde.